perché ne ha metà, ne all'estremità tu incontrerai la verità. Se tutto passa, la sua pena, il suo problema, ad ogni passo, il suo incanto, il suo inciampo.